People think learning piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it really takes with this new method. Ben forte. Ciao a tutte e tutti, questo non è un intervento introduttivo alla prima tavola rotonda, al primo dibattito, ma semplicemente, diciamo così, introduttivo al festival e a alcune delle sue norme. Noi siamo da 6 mesi senza stipendio e da 20 mesi in assemblea permanente. Dietro questo fatto non c'è soltanto un fatto economico, ma c'è una sottile e continua violenza psicologica di avere a che fare tutti i giorni con la bugia e con la calunnia. La storia è abbastanza semplice. Noi dovevamo essere al lavoro, ci hanno licenziato, abbiamo sconfitto i licenziamenti in tronco. L'ex advisor di GKN, in odore di correnti politiche nostrali, promette una reindustrializzazione, fa quello che fanno spesso gli reindustrializzatori, un incontro dopo un incontro dopo un incontro dopo un incontro dopo un incontro dopo un incontro dopo un altro incontro, e non arrivano mai gli investitori e non arriva mai il piano industriale, fino a che a un certo punto non inizia una sistematica inversione di causa ed effetto, dicendo che gli investitori non arrivano perché noi siamo in lotta e non che noi siamo in lotta perché ci hanno tolto il lavoro. Peraltro in questo momento noi siamo il piano industriale, noi discutiamo quotidianamente con giuristi, economisti, anche imprenditori, cooperative, scienziati, tecnologhi, su come far ripartire la fabbrica, e nessuno ha problemi con l'assemblea permanente, nessuno, nemmeno le istituzioni, almeno quelle regionali, e tutti concludono con la stessa domanda: ma questo stabilimento è a disposizione del lavoro? La verità è che noi crediamo che questo stabilimento oggi sia sì inaccessibile, ma alla speculazione immobiliare, e abbiamo buone ragioni per pensarlo. Dentro questo stabilimento noi abbiamo immaginato di avvalerci dell'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori per fare il dopo lavoro, come al Pignone, come all'ex Breda, all'Itaci, niente di strano, di particolare, come alle officine Galileo che hanno creato la FLOG nel nostro territorio, solo che ovviamente il dopolavoro in un'azienda che da 20 mesi è in lotta, che mobilita migliaia di persone, è un dopolavoro sontuoso, autorevole, che svolge oggi un festival che dovrebbe essere patrocinato dalle istituzioni locali, dovrebbe ripetersi ogni anno indipendentemente da GKN. Noi mettiamo Campi Bisenzio sulla mappa d'Europa per dire quanto siamo avanti. La proprietà è andata su tutte le furie per questo festival, ci ha minacciato e ci minaccerà di azioni legali, e al di là delle questioni legali che appartengono alla sfera legale su cui faremo le nostre valutazioni, il tema è semplicemente questo: se qualcuno di noi in questi 6 mesi avesse minacciato di lanciarsi dalla finestra, si fosse tagliato le vene, si fosse cosparso di benzina o si fosse fatto anche male seriamente, avremmo tutti una bella storia commovente da raccontare, la discussione sarebbe chiusa, le colleghe, i colleghi, gli amici, le amiche giornaliste avrebbero una storia facile da raccontare e probabilmente anche un bel post social. E qua succede qualcosa di diverso, che la nostra lotta avviene attraverso un festival della letteratura working class, e questo non ce lo possono permettere, perché noi non dobbiamo parlare, noi non dobbiamo pensare, noi non dobbiamo scrivere, noi possiamo soltanto indignarci, e se proprio non ce la facciamo, fare male a noi stessi e alle persone attorno nei mille modi in cui questo è possibile. Detto questo, capite che nonostante noi riteniamo di essere perfettamente nel giusto, questo è un festival che avviene all'interno di una assemblea permanente e all'interno di una fabbrica e agli spazi comuni che questa fabbrica si è conquistata attraverso una lotta. Quindi troverete, come può capitare, penso, in un romanzo working class, tante cose sgrammaticate, i bagni magari non puliti per tempo, le persone che non vi risponderanno come si risponderebbe magari col tono giusto. Vi preghiamo di vivere questi giorni. Le prossime presentazioni, giuro, le faccio più corte. Vi preghiamo di vivere questi giorni portandoveli dentro ma di non fare i turisti della fabbrica, di non tornare con quantità di foto, fotografie sui social, eccetera. Non perché noi abbiamo qualcosa da nascondere, ma perché là fuori c'è una psicologia destroide che tende a scambiare questa roba per il decreto rave party, eccetera. E purtroppo nella comunicazione devi sapere che quello che per te ha un significato, per altri ne ha un altro, e non aiutiamoli. Quindi grazie alla vostra presenza, scusate per la lungaggine, era il primo intervento, aiutateci come ci avete aiutato in questi mesi, in questi 3 giorni, in questo pezzo di storia che ci regaliamo volentieri. Se ce lo regaleremo con qualche denuncia in capo sarà ancora forse più prezioso, come tutto ciò che determina un sacrificio nella vita. Vi ricordo che c'è il crowdfunding che stiamo portando avanti per la reindustrializzazione, e che quindi aprile per noi sarà un mese di un'iniziativa dopo l'altra, a partire da un concerto per chi è di Firenze al Vai per il 7, ma tante altre ne faremo da qua ad aprile. Quindi grazie mille veramente. Grazie. Grazie a Dario e a tutto il collettivo di fabbrica GKN e a, diciamo, questa introduzione che, diciamo, è emozionante per me e per questo inizio, diciamo, del Festival di Letteratura Working Class, che appunto finalmente prende il via oggi e appunto con un po' di emozione, perché noi avevamo l'idea, diciamo, come casa editrice Alegre con Alberto ne discutevamo da tempo, di fare un festival della letteratura working class. Abbiamo questa collana che dirige per noi Alberto Prunetti, appunto collana di narrativa working class, e ci siamo un po' ispirati quando c'è stato quello che a nostra conoscenza è l'unico altro festival di letteratura working class che c'è stato a livello internazionale, che è quello che c'è stato a Bristol nel 2021. E da allora ci siamo detti: proviamo a fare anche noi un festival di letteratura working class. Ce lo siamo detti con Alberto, lo scrisse subito Claudia Durastanti, che è qui con noi sull'Essenziale, mi ricordo, la settimana stessa che c'era quel festival a Bristol. E volevamo farlo, però non volevamo farlo nel centro storico di una grande città, non volevamo semplicemente che fosse una discussione di letteratura, soltanto una discussione di letteratura, ma che fosse veramente anche uno strumento di lotta di classe. Questa opportunità ce l'hanno data solo e soltanto l'incontro con i lavoratori e le lavoratrici di GKN, e quindi questo non è solo il primo festival di letteratura working class che si fa in questo paese, ma anche in assoluto, credo, a livello internazionale, il primo festival di letteratura che è coorganizzato dall'inizio alla fine. Sono 4 mesi che facciamo riunioni sul programma, di organizzazioni e tutto, con il collettivo di fabbrica, con gli operai che stanno portando avanti questa lotta che di cui ci ha aggiornato adesso Dario brevemente, e grazie a loro appunto questo festival è anche uno strumento di lotta di classe, perché abbiamo visto la reazione in qualche modo che c'è stata della proprietà di questo sito, dopo che questi lavoratori e lavoratrici sono da 20 mesi con la produzione bloccata, da mesi senza stipendio, eppure c'è stata una reazione anche per la visibilità inaspettata che ha avuto questo festival. Festival che si fa appunto grazie a questa collaborazione con il collettivo di fabbrica e grazie a 305 sostenitori e sostenitrici che ci hanno permesso finanziariamente di farle. Un festival che non ha finanziatori né pubblici né privati, questo a differenza appunto del Festival Working Class di Bristol, ma che si è autofinanziato con un crowdfunding che ha avuto appunto centinaia di contributi, molti anche piccoli, di 10-20 euro, e che ci ha permesso in qualche modo di, oltre al lavoro volontario, militante, di relatori e relatrici, di chi ha montato e rismontato più volte in questi giorni questo festival per arrivare a quello che vedete qui oggi. Sicuramente la lotta, senza la, la lotta di GKN non avremmo un evento di tale portata. Questa è la prima cosa che bisogna dirci, una lotta che in questi mesi è stata in grado di mettere insieme appunto la lotta ad oltranza, tipica diciamo dei momenti più alti del movimento operaio, però con la capacità di mutualismo, la richiesta di intervento pubblico con i progetti di reindustrializzazione dal basso, diceva adesso Dario, il crowdfunding per la reindustrializzazione che è in corso, i progetti che ci sono attraverso le energie e le competenze solidali che si sono create intorno a questa lotta. E poi ha messo insieme anche la capacità di fare barricate sulle strade e di fare barricate con le parole, quindi di saper ricostruire un immaginario di classe. Un'altra grande onore diciamo per noi come Alegre e per la collana relativa Working Class, quindi è stato pubblicare il libro Insorgiamo un anno fa, in occasione della manifestazione che ci fu nel marzo scorso, che era un diario appunto della lotta e della capacità anche comunicativa di comunicazione che ha avuto questa lotta in questi mesi, che è proseguita anche successivamente. In questi ultimi 30 anni è stato ripetuto come un mantra che le classi sociali non esistono più, che non esiste più la classe operaia, eppure ci troviamo qua con un festival organizzato direttamente da degli operai di fabbrica, anche tradizionale diciamo come figura sociale, e ci troviamo in una società dove eppure la stragrande maggioranza della popolazione per vivere deve lavorare. Però il mantra è stato che siamo tutti classe media e che chi non riesce quindi nella propria vita, non ha successo, non ha ricchezza, non riesce ad arrivare oltre ad un certo livello, ne ha la colpa fondamentalmente, è una colpa diciamo così l'essere poveri, lavoratori poveri, l'essere in difficoltà economica, non avere accesso a grandi risorse, in una specie di demonizzazione che c'è stata negli ultimi anni della working class, appunto di un disprezzo sociale anche in questo caso permesso rispetto diciamo lecito anche rispetto a altri disprezzi sociali giustamente finalmente diventati tabù. Il disprezzo per la povertà è invece lecito, se ne può parlare, si può parlare di chi è povero come un parassita, come qualcuno che vuole sfruttare gli altri, il welfare state a danno di tutti gli altri. E questo diciamo ovviamente dipende da decenni diciamo di sconfitte sociali e politiche, ma anche da un'offensiva fortissima che c'è stata sull'immaginario, cioè su una eliminazione appunto della classe sociale dall'immaginario. Per questo per noi ricostruire un immaginario di classe è fondamentale, per questo come casa editrice nel lavoro che abbiamo fatto con Alberto è un punto essenziale ricostruire un immaginario e una cultura working class. Ovviamente senza la lotta di classe non riesce ad emergere, ma se non ha anche l'immaginario non riesce a rafforzarsi politicamente, a imporsi in qualche modo nella società. Per questo per noi è un elemento fondamentale. Usiamo diciamo il termine working class, spesso ci vengono, anche ieri era una delle cose che ci hanno chiesto a Radio 3, perché usate l'inglese? Non è solo un anglismo, questa è una delle cose che ci teniamo a dire, ma è, e lo si vede anche da come abbiamo costruito il programma, l'idea di dare una prospettiva più ampia a quello che è il concetto di classe, di dargli una forza, un'unitarietà. Appunto è stato detto che non esiste più la classe operaia di fabbrica, il working class va oltre diciamo la semplice traduzione di classe operaia, però la tiene dentro, e abbiamo visto infatti questo festival la tiene dentro talmente tanto che siamo dentro una fabbrica e con la classe operaia di fabbrica tradizionale diciamo che lo organizza insieme a noi. Però ci parla anche di una pluralità della composizione della working class che è dentro infatti il nostro programma, che è un programma che ha un suo approccio fortemente intersezionale, che guarda le oppressioni di genere, le oppressioni di razza, e le tiene insieme in una composizione plurale di quella che è la moderna working class, che non è appunto solo la classe operaia di fabbrica, ma è fatta anche di lavoratori migranti, di rider, di precari del mondo dell'editoria, e quindi di condizioni di lavoro veramente di una composizione plurale e diversificata. Ma è anche l'idea che la cultura working class, soprattutto nella tradizione anglosassone, che ha una, ce ne parlerà Anthony Cartwright anche qui, ma ne parleremo a lungo in questi tre giorni, ha una tradizione di letteratura working class molto più profonda che quella che abbiamo in questo paese, tiene dentro sia i lavoratori, sia la classe lavoratrice, che chi si trova a lavorare in modo intermittente, a essere spesso disoccupato, a essere in condizioni di povertà. In fondo questo governo, vediamo adesso l'attacco al reddito di cittadinanza, ed è un tentativo di mettere gli ultimi contro i penultimi, no? Come si dice di questa società. Invece il tentativo di tenere insieme al termine working class e di ridare una unitarietà. Il programma è quindi un programma intersezionale, appunto, però tiene al centro la questione di classe. Spesso si parla di intersezionalità anche moltissimo, diciamo, ormai a livello di politica culturale, ma si dimentica proprio spesso la classe. La classe non è semplicemente una identità da includere, ma è una parola che non si è smesso di pronunciare perché è troppo radicale, in qualche modo svela immediatamente il funzionamento di questa società, del suo modello produttivo basato sullo sfruttamento e sulla diseguaglianza. In qualche modo riuscire a raccontarsi in prima persona, riuscire a raccontarsi, a esprimere il conflitto, si riesce a riportare la cultura working class, a non farla semplicemente diventare una categoria da sussumere, da includere, o addirittura una categoria merceologica, se si sta dentro il conflitto. In fondo qualsiasi corso di scrittura, di narratologia, ti dice che dal conflitto inizia qualsiasi storia. Noi vogliamo che la working class scriva la sua storia, da questo conflitto che si ha in questo luogo inizi questo festival. Per questo io mi fermo qua e do la parola ad Alberto, che ha curato, diretto appunto il programma di questo festival, e che ha scritto nei mesi scorsi Non è un pranzo di gala, che è questo libro uscito per Minimum Fax, che approfondisce proprio qual è l'idea di letteratura working class che discuteremo in questi tre giorni. Grazie. Io comincio una comunicazione di servizio che però è molto bella. È arrivato un operaio di Convergenza Culturale, che è il ramo culturale del collettivo di fabbrica, che mi ha chiesto di dirvi, per chi ha bambini, che è aperto lo spazio Prole, e quindi potete andare con i bambini, chi ha bambini, oppure lasciare bambini e poi tornare qua, e ci saranno persone che si prenderanno cura dei bambini. E io non nascondo la mia emozione per questo che sto vedendo con i miei occhi adesso, e vorrei chiedervi di prendervi cura della nostra emozione, perché prendersi cura è una delle cose che la classe operaia è abituata a fare, e gli operai devono prendersi cura dei giramenti di coglioni dei padroni, e l'abbiamo visto in questi giorni, e i padroni se ne sbattano del nostro lavoro, delle nostre emozioni, di quello che proviamo a fare, anche quando magari liquidano una fabbrica e guardano altrove, se ne vanno, però anche se se ne vanno poi vogliono continuare a comandare, e non gli piace il fatto che le persone dal basso cercano di costruire qualcosa di bello come quello che stiamo facendo, un momento in cui ci prendiamo cura delle nostre storie tutte assieme. David Graeber, che è un antropologo di famiglia working class, che era figlio di un sindacalista, di un'operaia tessile, diceva che attraverso l'immaginario popolare la working class si prende cura di se stessa e si prende cura del morale, del proprio morale, cerca di tenersi su il morale. È quello che credo dobbiamo fare noi in questo momento, anche rispetto agli operai che hanno reso tutto questo possibile, e non solo perché siamo a casa loro, ma perché senza la loro mobilitazione l'immaginario di classe in Italia senza la mobilitazione degli operai di GKN sarebbe quello di 10 anni fa, probabilmente. 10 anni fa parlare di letteratura working class non c'era nemmeno, non c'erano le parole per dirla cos'era questa cosa. 10 anni fa, 15 anni fa, ma anche prima, io sono cresciuto con l'idea che essere una persona di classe operaia era qualcosa di cui vergognarsi, cioè dovevo vergognarmi di mio padre e di mia madre, no? Perché mio padre era un saldatore e mia mamma una casalinga, o dovevamo vergognarci di essere poveri, di non avere consumi culturali. Ancora ai primi, nel 2010, quando ho iniziato a provare a cercare un editore per quello che poi sarebbe diventato Amianto, il mio primo libro working class, ho sentito questa risposta che mi è arrivata da una casa editrice. Il nostro ufficio marketing dice che non ci sono buoni segnali per la storia di un operaio che muore di un tumore, ecco. Io vorrei che quell'ufficio marketing vedesse cosa hanno organizzato gli operai GKN, grazie a loro, con loro, per loro abbiamo fatto. Purtroppo mentre ci ripetevano la classe operaia non esiste più, cercavano di distruggerne l'immaginario, la sua forza simbolica, in un paese che negli anni 60-70 per anni aveva visto la classe operaia più organizzata d'Europa. Abbiamo vissuto anni spaventosi in cui quelli più empatici erano afflitti da retromania, no? Da nostalgia. E purtroppo la nostalgia è qualcosa di conservatore: più ti guardi indietro, meno riesci a vedere cosa hai davanti. E più che tornare indietro, bisognava andare avanti, vedere cosa stava succedendo all'estero, capire come la classe operaia si stava trasformando, trasformarla in qualcosa di più inclusivo, vederla sempre meno come qualcosa fatta di maschi in tute blu e mani sporche di bianco. Vedere i cleaner, vedere i rider, vedere le donne che si occupano della cura, i lavoratori e le lavoratrici migranti razzializzati, e provare a ricostruire un immaginario comune e conflittuale per una classe a cui tutti fanno troppo facilmente il funerale, e quando la bara in fondo è vuota. E io per un po' ci ho provato da solo, ci ho provato poi con alcuni colleghi nell'industria del libro, che stavano in angoli di nicchia, minoritari, ai margini della grande editoria. E la cosa interessante è che quello che in un gruppetto sparuto di persone abbiamo provato a fare da soli in 5, 6, 7 anni, non so, dal 2018 abbiamo creato la collana Working Class, che è qualcosa di importante, però ovviamente non trovate nelle vetrine delle grandi librerie, è stato a un certo punto travolto dalla mobilitazione degli operai GKN. Loro hanno fatto per l'immaginario della nuova classe lavoratrice in 6 mesi, questo l'ho realizzato il giorno della manifestazione dei 40.000, settembre 2021, e in 6 mesi hanno fatto quello che io e altri non siamo riusciti a fare in anni. E l'hanno fatto perché hanno paradossalmente, io lavoravo comunque da solo, da scrittore, che è qualcosa che ha un retaggio un po' borghese. Loro l'hanno fatto in maniera collettiva e sono riusciti a fare molto più di noi. Ecco, in qualche maniera io quello che chiedo adesso alle persone, appunto, di farci carico di queste storie e di riuscire a immaginare la vostra presenza come non una forma di consumo culturale, come potrebbe essere quello che si fa in uno dei tantissimi festival italiani, con le persone colte, istruite, vestite di lino. Non siamo qui per fare consumo culturale, siamo qui per prenderci cura delle storie e del posto in cui ci troviamo. questo posto che ha una tradizione lunghissima, che comincia a Novoli, comincia con la Fiat, ed è il passaggio da come si arriva alla Fiat, alla GKN e all'ex GKN, è una delle storie che gli operai hanno raccontato nel loro libro Insorgiamo, e l'hanno fatto benissimo, l'hanno fatto da soli, perché non avevano bisogno di un megafono di intellettuali colti e istruiti, magari progressisti, magari compagni. Questa è una delle dimensioni, secondo me, importante della letteratura working class, che le persone riescano a raccontarsi con le proprie parole da sole, perché anche il megafono dell'intellettuale progressista è vero che ti dà voce, ma ti prende anche la voce, e alla fine, a forza di farti dare la voce da altre, finisce che la tua voce non si sente più. E questo succede un po' per tutte le categorie oppresse, non solo per quelle oppresse per la classe. Succedeva in passato, succedeva molto spesso, quando a parlare di femminismo erano maschi, quando a parlare di lotte antirazziste erano bianchi, e è successo anche per la classe operaia, che molto spesso è stata raccontata anche in passato da intellettuali privilegiati, che poi a un certo punto sono scomparsi e hanno loro declamato la fine della classe operaia. Probabilmente avevano campagne o migliori da seguire o qualche cos'altro da fare. È arrivato il momento che ricominciamo a prenderci le nostre parole, che ricominciamo a prenderci i nostri spazi nella vita politica, nell'industria del libro, ma nell'industria culturale, ma nell'università. Tantissime persone mi hanno raccontato di aver vissuto il disagio di essere l'unica persona working class nella stanza, la sindrome dell'impostore, ma adesso è anche il momento di rivendicare con orgoglio la nostra storia, il fatto che dobbiamo essere siamo obbligati a essere più bravi, a studiare di più, perché non abbiamo capitale culturale. Ecco, è il momento di capire che abbiamo in realtà abbiamo una solidarietà, abbiamo delle storie, abbiamo un linguaggio, che è il linguaggio con cui raccontiamo le nostre storie, e non può essere pronunciato se non in un dilettantesco falsetto dal figlio del notaio. E quindi dobbiamo tornare a sentire l'orgoglio per le nostre storie e far risuonare la nostra voce. Per questo abbiamo fatto questo festival. Grazie Alberto, e allora diamo la parola a Anthony Cartwright, uno dei nostri ospiti internazionali che avremo di questi tre giorni, uno degli autori più importanti della letteratura working class anglosassone, pubblicato in Italia da 66 and Second, e a cui chiediamo di darci già da subito, diciamo, uno sguardo a partire dal suo lavoro, dai suoi libri, su come intende lui la letteratura working class, e un primo affresco, diciamo, di quello che è lo scenario e il contesto invece anglosassone rispetto a questo tipo di letteratura. Anche Giulio, thank you as well, obviously, to be invited here. It's a hugely inspiring sight to see everybody here. I'm really delighted to be here from the UK in solidarity with the campaign here. And I guess, building on what Alberto was just saying, we're here to talk about specific stories and specific working class stories and particular experiences that I've written about in novels, for example. But what we're seeking to do, hopefully, through sharing those stories, is say that, yes, of course, hopefully in telling stories about working class experience, they might offer hope and inspiration to people, but also that there's a practical aspect to this, of bringing people together, of creating something through sharing those stories, And again, as Alberto said, often writing and reading is presented as an individual act, but I think our presence here in the space we're in and in coming together shows what a collective action writing and reading, you know, literature can be. Grazie per l'invito, è veramente bello essere qui e vedere tutte queste persone riunite. Sono contento di essere venuto qui dal Regno Unito in solidarietà e assistere a tutto questo. Partendo dalle parole di Alberto, vorrei sottolineare quanto sia importante condividere storie ed esperienze di working class, ed è storie ed esperienze particolari. Io ho scritto proprio ovviamente di queste tematiche, e quello che cerchiamo di fare è condividere storie, perché speriamo che raccontando storie ed esperienze di working class che siano di speranza e di ispirazione per tutti, ma che portino con sé anche aspetti pratici, che riusciamo a riunire le persone e a creare dei cambiamenti per tutti. Spesso sentiamo dire che leggere e scrivere siano atti individuali, ma se vediamo qui quanti siamo oggi, quello che stiamo facendo e quello che faremo in questi giorni, questa presenza collettiva, vediamo che leggere e scrivere in realtà può essere un atto collettivo. And, so the stories I've written, my books center really on working class families in the English Midlands, centered around a town called Dudley, which is where I grew up, in the an area known as the Black Country. So there's a tradition of representing that way of life, I think, that does exist in British literature, that we can maybe contrast with what Alberto was saying about the Italian landscape. Although that offers some opportunities and some challenges. So the stories I've told are often about family life, often centered around factories, not unlike this one. My dad, in fact, worked briefly for GKN in the 1980s. I had an uncle that worked for GKN for 20 years or so, and a lot of my stories center around that kind of industrial working class background. And a lot of my work deals with that sort of collapse often, and decline, and sometimes the failure of resistance to economic forces. So in some ways, unlike the resistance being offered here, so there's this kind of tradition, like of social realist depictions of working class family life, that probably comes from sort of 1950s, 1960s. Definitely a tradition I've written in, and something that's come from me, is the work of writers like Alan Sillitoe and his novel Saturday Night and Sunday Morning, and depictions in literature and a corresponding representation in film. And that tradition runs through into kind of more contemporary work, like from Ken Loach and Shane Meadows. The challenge with this, as I think I've become aware of in writing the novels, and actually something that both Giulio and Alberto have just mentioned, is is I'm, and you'll notice from my examples, I'm talking particularly about kind of white working class experience, which is part of the landscape of working class experience in Britain today, but of course just part of a kaleidoscope or a mosaic of experience. Le storie che ho scritto parlano di famiglie working class. Io vengo dal Midland inglese, da Dudley, la città in cui sono cresciuto, in una zona che è conosciuta come il Black Country. La letteratura working class britannica ha questa tradizione che rappresenta un po' anche quello che diceva Alberto del panorama italiano, che presenta delle opportunità ma anche delle sfide. Generalmente le mie storie trattano appunto di vita familiare, di industrie simili a questa, e anche l'esperienza di GKN è il tipo di background di working class del mio lavoro. La resistenza a forze economiche, anche la stigmatizzazione sociale di questa tradizione. Il mio lavoro si basa sulla letteratura working class degli anni 50-60, ad esempio Alan Sillitoe, che autore di Saturday Night on Sunday Morning, ma a quel tempo ho acquisito più consapevolezza. Cioè, il mio esempio mostra come l'esperienza working class bianca sia parte dell'esperienza working class britannica di oggi, ma è parte anche di tutto un caleidoscopio dell'esperienza working class effettiva. And, so I think in terms of talking about the landscape and the context that we're in, I know a challenge for me as a writer has been both trying to write about specific experiences, stories set particularly from the 1980s until now, kind of following a pattern of working class family life that's really kind of related to both my own experience and that of my family, and how that fits into a wider context of, so for example, in politically, like 5 or 6 years ago, when Jeremy Corbyn was Labour leader, I was quite involved in local Labour politics in London, where I was living, and of course, the working class experience in contemporary London is racially very mixed, and actually much of urban working class experience is black experience. And it's how I think one really exciting thing but also challenge we've got in the stories we tell about working class experience is how we make that a plurality, and how it's not fragmented in the way that potentially the people ranged against us, whether it's GKN and now the bosses here at Bisenzio, or whether it's forces in the British establishment, how we maintain plurality and diversity and are not then subjected to a kind of divide and rule in the way those stories are then presented. È importante parlare del contesto, del panorama in cui operiamo. La sfida per me come autore è raccontare esperienze specifiche di working class, e dagli anni 80 ad oggi fondamentalmente ho seguito un modello di vita familiare working class che è quello legato alla mia esperienza e alla mia famiglia. Ma la domanda è come si inserisce tutto questo in un contesto più ampio. negli ultimi 5-6 anni, per esempio, ho assistito a come l'esperienza working class a Londra si è mossa. Etnicamente è molto varia, si parla principalmente di working class di colore, ma la sfida è come integrare questa pluralità e non creare una frammentazione. Che si tratti di GKN a Campi Bisenzio, la vera sfida è appunto come integrare con altre città e non creare delle norme divisive. And so, I mean, maybe one way of doing this is finding a voice to talk about specific experience. So I mentioned, you know, my own writing centering very much on those experiences in Dudley, and really tracking and writing about the emotional, the felt experience of, I guess, what you'd describe as economic collapse, like firstly in the 80s and then subsequent crises. You know, a lot of people in the UK at the moment are feeling like crisis on top of crisis in different areas of society. But it's about telling maybe the specific stories. Because what's interesting, and it feels really relevant to me being here, sitting in a GKN factory with the experience that people are having here and the resistance being shown by the workers here, is how is the correspondence in lots of ways between experiences. So from specific stories, we end up with a kind of sense of the universal. So I think that's one really important thing to stress, and something, try to achieve in what I've been writing. Principalmente la domanda è che cosa faccio, e quello che cerco di fare è trovare la voce per parlare di esperienze specifiche. Come dicevo, i miei libri trattano principalmente della mia esperienza personale a Dudley, delle esperienze e anche però delle emozioni. Dagli anni 80 abbiamo assistito a un disastro economico succeduto poi da varie crisi, e le persone in Gran Bretagna oggigiorno stanno vivendo una crisi. Per me è molto, molto rilevante essere qui in questa fabbrica e vedere e assistere alla resistenza che stanno mostrando gli operai. Questo dà un senso di corrispondenza con altre esperienze, ma anche un senso di universalità. Attraverso storie specifiche si può creare un senso di universalità, e credo che questo sia un aspetto molto importante da sottolineare. And I guess going back to that idea of the challenge of multiplicity and plurality, and how that works, I can think of a recent novel written in English, a writer called Paul Mendes, who was in lots of ways you could describe as writing in a similar vein, because he was writing about a family story from the 1950s onwards, but it was the arrival of the characters and the family arriving from the Caribbean, working at the steelworks in a town called Bilston, which is near to Dudley. And it becomes a story of a character that through the 80s and after, that is black, that is gay. But part of my experience in reading that novel was like, well, you know, that's me. And hopefully that's the way that telling very specific stories, we learn something about a different experience. As I've said, I've written very much about white working class experience. We learn something about experience different from our own, but we also, you know, we see what's common and what we share. And that's the thing about making it a collective experience. Se torniamo all'idea di cui parlavamo della sfida, della molteplicità e della pluralità e come si possono raggiungere nella working class, penso a un'opera recente di Paul Mendes in cui tratta dell'arrivo dai Caraibi della sua famiglia che inizia a lavorare in un'acciaieria vicino Dudley, e quindi è la storia di una persona nel corso degli anni Ottanta, una persona di colore, omosessuale, ma attraverso questa storia molto specifica e attraverso le storie molto specifiche in generale impariamo di altre esperienze. Io principalmente ho sempre scritto di esperienza di working class ovviamente bianca, ma attraverso le storie molto specifiche di altri possiamo vedere quali sono i punti che condividiamo, i punti che abbiamo in comune, ed è attraverso questo apprendimento reciproco che si crea un'esperienza collettiva. Grazie mille Anthony. Grazie. Do la parola a Claudia Durastanti, intanto ringraziandola perché ci ha dato una grossa mano, diciamo, nell'organizzazione di questo festival, e anche una grossa spinta, motivazione. Dicevo prima del suo articolo subito dopo il Festival di Bristol, che era: non vedremo mai in Italia un festival della letteratura working class, invece ce l'abbiamo fatta. Il titolo, se non sbaglio, era proprio così: in Italia è inimmaginabile, e invece l'abbiamo fatta, quindi ci ha proprio spinto a farlo. E è anche un'organizzatrice di tanti festival culturali importanti di questo paese, tra cui anche il Salone di Torino, quindi sa, diciamo, cosa significa organizzare un evento del genere e il bisogno anche di organizzare un evento con queste caratteristiche. È anche una scrittrice, autrice tra l'altro di La straniera, uscito per La nave di Teseo, che inseriamo, diciamo, nel filone di letteratura working class, e esperta, molto esperta di letteratura anglosassone. Grazie a tutte e a tutti per essere qui, e grazie dell'invito, che in realtà, al di là dello slancio motivazionale, quasi più da osservatrice e spettatrice, ho accolto con un po' di soggezione, perché quando si arriva all'argomento della classe, del lavoro, dell'appartenenza di classe, della povertà, per me resta una domanda aperta. Mi chiedo, in un certo senso, fino a che punto posso raccontare l'esperienza che è essenzialmente quella dei miei genitori e che non rientra neanche nei confini più ristretti della letteratura working class in senso pieno, perché parliamo di un mondo subalterno legato alla disabilità che deve la sua sussistenza fondamentalmente al welfare state, allo Stato. Io stessa mi considero figlia dello Stato sociale, la mia emancipazione è avvenuta essenzialmente attraverso l'istruzione pubblica, in quello che sembra un percorso di vita che sta quasi diventando di fantascienza. Una delle mie ossessioni ricorrenti, che riguarda l'immaginario ma anche la politica, è cercare di capire se questi percorsi che ho vissuto in prima persona sono ancora possibili oggi. Questo su un piano appunto di realtà sociale e anche di possibilità del racconto in letteratura. E quindi non è vero che provenendo da un contesto del genere si hanno sempre gli strumenti per interpretarlo, raccontarlo, definirlo, perché nel contesto in cui sono cresciuta, che è quello di un piccolo paese meridionale della Lucania, che è una delle regioni più deindustrializzate d'Italia, tra l'altro, l'esperienza di questa famiglia veniva letta non tanto attraverso la lente della classe lavoratrice o della classe, ma più in quello della devianza e quindi in una sorta di pericolosità. Ed era un'esperienza isolata, quindi io non avevo nel contesto la possibilità né di sentire l'orgoglio dell'appartenenza subalterna, ma non avevo anche negli indizi per capire come categorizzarla. Ho cercato aiuto nella letteratura e pensavo a questa frase promozionale che si usava a volte in Inghilterra per dire steal this book, steal this album, no, ruba questo libro, questo disco. Io li rubavo letteralmente, in un certo senso, quindi il furto della cultura è stata una pietra miliare della mia formazione. E non sono del tutto d'accordo con il fatto che povertà, classi popolari, classi lavoratrici, working class non siano state raccontate nel romanzo o, se vogliamo estendere il discorso, al cinema o nel campo appunto delle arti visive in Italia. Sono state molto raccontate, ma tendenzialmente da uno sguardo dominante che ha lavorato da una parte sulla pornografia del dolore, la romanticizzazione della povertà, tutta una serie di cose. È impossibile dire che non ci sia il tema delle classi popolari e lavoratrici in un paese in cui uno dei più grandi intellettuali è stato Pierpaolo Pasolini, ma uno dei motivi del mio rapporto con Violento, direi, che tuttora vive in questa dimensione di amore e odio con Pasolini, è appunto questo, che ha contribuito in maniera a volte dannosa a questa romanticizzazione. Lui usava espressioni come la dolcezza della povertà. Quindi i ragazzi e le ragazze di vita hanno spopolato nella nostra letteratura, ma raramente sono stati proprietari dei loro mezzi di espressione, se vogliamo usare un linguaggio para marxista. E quindi dove dovevo andare a pescare dei riferimenti? E per quanto riguarda La fabbrica, ripensavo che è stato anche un genere nelle riviste, no? Tra il 53 e il 58 un mio coterraneo, Leonardo Sinisgalli, che era un uomo della Pirelli, fece questa rivista che era La civiltà delle macchine e mandava costantemente emissari inviati a raccontare che cos'era La fabbrica. Ho cercato un po' di spulciare gli archivi e ci sono sempre spezzoni, lacerti delle vite che venivano raccontate o sotto formato di intervista, ma appunto c'era una mancanza di prima persona, in qualche modo, di racconto della propria esperienza diretta, spesso affidandosi all'idea che ha spopolato nelle classi borghesi italiane di dire: se non raccontiamo noi che possiamo e abbiamo i mezzi, queste persone non hanno voce. Ecco, io sono particolarmente contenta che uno dei temi di questo festival sia il fatto che questa voce c'è e ha imparato a riconoscersi in qualche modo, anche superando questi meccanismi di omissione. Quindi da una parte parlavo di una presenza molto forte ma raccontata da uno sguardo dominante, e volevo raccontarvi anche dei meccanismi più subdoli con cui si opacizza la classe. Vi faccio l'esempio di due scrittrici di riferimento per me, una americana e l'altra francese, quando si racconta l'appartenenza subalterna. La prima è Lucia Berlin, che in Italia la pubblica Bollati Boringhieri, nata in Alaska, vissuta in New Mexico, si è spostata tantissimo negli Stati Uniti perché il padre era un ingegnere che lavorava per le miniere, ha fatto ogni sorta di lavoro, babysitter, soprattutto donna delle pulizie, centralinista. Viene riscoperta verso la fine, ha avuto una vita travagliata, verso la fine della sua esistenza letteraria riesce a ottenere un posto di insegnamento. Nel 2015 in America fanno una bellissima operazione di ripubblicare i suoi racconti. Esce in America con il titolo A Manual for Cleaning Women, un manuale per... Da una parte c'è la critica di genere per pulire le donne, e dall'altro però il titolo vero, perché sono storie working class, è un manuale per donne delle pulizie. In Italia esce anche con una bella traduzione come La donna che scriveva racconti. Ora, significa rimuovere fortissimamente l'elemento del lavoro, dell'appartenenza subalterna, ingentilendola. Un'altra autrice che è stata molto ingentilita per tutta una serie di ragioni che sarebbe forse complicato spiegare è la vincitrice dell'ultimo premio Nobel, Annie Ernaux. Io partecipo all'organizzazione di eventi culturali, l'anno scorso abbiamo fatto un panel con Alberto Brunetti di Hunter che vedrete domani e volevo Annie Ernaux in questa conversazione sulla letteratura working class. Ci sono state delle resistenze più che altro per l'idea che non venga letta in Italia, mentre in Francia è una, insieme a Didier Eribon, Edouard Louis, è una, la capostipite in un certo senso di letteratura femminista, riflessione sul sé legata ai temi della classe, per me i suoi lavori più belli sono sulla classe, quindi Il posto e la vergogna. E sono anche i libri probabilmente per cui è meno conosciuta in Italia, perché nella traduzione in qualche modo di Annie Ernaux si è persa o si è voluta un po' mettere al margine questa componente reattiva della classe e lei venne al Salone lo scorso anno e disse in una sala in cui c'hanno meno persone di quanto ce ne siano qui adesso, va detto, e se io voglio essere riconosciuta come autrice working class, riceve il Nobel e dice io voglio essere riconosciuta come autrice working class. E questo era per raccontarvi un po' come anche, non è vero che non si traduce o non ci sono, spesso non veniamo educati, abituati, accompagnati a leggere dei testi per quello che sono. E questa strategia di dissimulazione l'ho percepita anche in tante autrici, autori working class, e quindi il mio percorso di riconciliazione con le origini o con il mondo in cui mi sono formata è stata attraverso l'esperienza della migrazione in Inghilterra. Io mi occupo anche di musica e uno dei motivi, adesso ho la disturbante mansione di occuparmi di musica italiana, che in realtà lo faccio con piacere, però all'inizio avevo proprio una forte insofferenza da bambina perché mi sembrava che nel cantautorato italiano il lavoro ci fosse visto solo attraverso anche ottimi cantautori che raccontavano quella realtà però di nuovo da un punto di vista dominante, mentre nell'ambito del rock and roll americano, del blues, c'era molto una presenza di subalterno, così come c'era nel punk inglese in un certo senso. E quindi io mi sono trasferita in Inghilterra per questa questione del punk inglese, perché mi sembrava che si potesse attraverso una non cultura, in realtà era anche molto formalizzato il punk, una sgrammaticatura, questo venire sempre dal margine, avere, no, una visibilità sulla scena pubblica. E quindi con questa esperienza della migrazione nel paese, io poi sono anche, ho una parte di percorso biografico legato agli Stati Uniti, ma nessuna società, lo diceva anche Anthony prima, è classista ed elitista quanto quella inglese, ti costringe, e questo vale anche per il percorso di scrittura e biografico di Alberto, a pensare alla classe costantemente, è qualcosa che vivi, che è epidermico, devi reagire in qualche modo. Ed è stato attraverso questa esperienza che in qualche modo mi sono potuta riconciliare con la letteratura working class. Ora io faccio la traduttrice, so, come hanno detto Giulia e Alberto, che ci sono state un po' di riserve sull'utilizzare l'espressione working class. Non è un brand, non significa sanificare, non significa ingentilire, e soprattutto io non appartengo forse a una cultura nostalgica, non più, e quindi non credo di essere orientata sempre all'idea che si sta perdendo qualcosa. In realtà si allarga e si espande, non è una forma di vergogna o di rifiuto per la letteratura della classe operaia o della classe lavoratrice, ma è comprendere e in qualche modo anche includere quelle non lavoratrici, quelle persone che oggi magari percepiscono il reddito di cittadinanza, persone che vivono nella dimensione della povertà e del debito, che non sono mancate, come dicevo prima, dal romanzo italiano, ma sono sempre state raccontate con un'altra lingua, un'altra visione, un altro stereotipo. E quindi credo che questo sia un momento di riappropriazione e di voglia di raccontarsi e riconciliarsi, anche perché no, attraverso l'idea delle working class che stanno in altri contesti europei e internazionali. 15 minuti di dibattito. Devo fare una piccola comunicazione di servizio. Il lancio. Allora, due piccole comunicazioni di servizio. La prima, ovviamente, in ogni tavolo, in ogni panel che abbiamo organizzato, gli ultimi 15 minuti, sul tavolo ci siamo sopra, perché questi erano tavoli, in realtà sono 6 tavoli in cui è stato fatto. E gli ultimi 15 minuti sono per qualche domanda, siete tanti e tante. Non, ovviamente non possiamo gestire tutte per rispetto, diciamo, di chi viene dopo, quindi possiamo solo accogliere qualche domanda per stare sui 15 minuti del dibattito. L'altra questione, ancora è presto, in Toscana si mangia presto, comunque diciamo, stiamo facendo lo sforzo per arrivare alle 8, diciamo dalle 20 per un'ora e mezzo è aperta la mensa, quindi chiedete agli operai come fare, però noi andiamo avanti col programma, quindi continuate anche a seguirci, alternate, vi trovate... un'ora e mezzo, ma la pausa operaia del pranzo è mezz'ora, sì, sul programma abbiamo una mezz'ora solo, quindi vediamo, però è anche vero che tutti insieme in mezz'ora probabilmente non mangiate, insomma, quindi andiamo avanti, comunque dalle 20 alle 9.30, 9.40 penso, va bene? E... se c'è qualche domanda dovete venire qua, due, tre, non lo so. Se non ci so, si guadagna spazio per chi viene dopo. Credo qualcosa ci sarà. E magari dite a chi la fate la domanda, perché siamo in tanto. No, è presto, ancora non si mangia. Sa scappare l'ultimo a mangiare. La superai ha fame. Là, se non ci sono domande, perché tanto. Ah no, c'è una domanda. Allora sì, dovete farvi sotto perché. Devi venire forse un po'. Prova un po', non vorrei fischiarsi. Prova. Bene, no? Salve. No, io volevo, cioè più che una domanda è un commento a una cosa che hai detto te, Alberto, infatti. E volevo condividere un'esperienza analoga a quella che hai avuto tu con l'ufficio marketing, perché intorno a quegli anni ho avuto una risposta analoga. Io abitavo negli Stati Uniti e ho proposto a una... casa editrice indipendente italiana, non era un romanzo, ma era un reportage narrativo su una realtà di una comunità agricola della Florida, ma era una esperienza di lotta praticamente di un gruppo di lavoratori agricoli, appunto, che io raccontavo appunto in una sorta di reportage narrativo. Gli articoli erano usciti in Italia, erano andati bene. Però mi fu risposto, sì, molto interessante, però non c'è mercato appunto per questa cosa qui, e mi venne fatto l'esempio di, ora non mi sfugge il nome, un giornalista dell'Espresso che ha scritto Bigal, Gatti forse, e mi dissero praticamente non avrebbe venduto. Cioè, quindi la stessa logica, appunto non è un romanzo, però parlava chiaramente di persone che hanno un, cioè comunque in teoria, allora diciamo la domanda che ho, perché è una domanda che cosa che mi chiedo anch'io è solo una questione legata al mercato e all'immaginario, o veramente abbiamo un problema legato a una desensibilizzazione nei confronti di certi temi? Cioè, lo vedo adesso con la questione legata ai morti nel Mediterraneo, in cui sembra appunto che quello sta accadendo ormai da anni quasi nell'indifferenza generale, ecco. Quindi è una domanda un po' più ampia che va al di là della questione culturale che esiste, però appunto mi sembra che ci sia un problema anche sociale, ecco. Tutti, un po' tutti. Magari non so se c'è qualche altra domanda, ne raccogliamo due o tre, perché se no se facciamo il botta risposta non ce la facciamo. Quindi raccogliamo due o tre domande, poi ho un intervento. Salve a tutti. La mia domanda è diretta, specifica a Anthony. Siccome io sono appassionato di letteratura britannica, ma mi piace molto anche il cinema di Ken Loach, e quindi volevo chiedergli come vede un po' il raffronto tra come viene raccontata la working class nella letteratura rispetto al linguaggio narrativo di Ken Loach. Semplicemente questo, grazie. Ok, se non c'è nessun altro, farei rispondere Anthony e poi te? Va bene? Anthony e poi te. Sono... Vabbè, una era per te, una era per lui. Vabbè, ultimissima. Aggiungo che è un altro scrittore e poeta di classe operaio, Fabio Franzin. Grazie. Io credo che ci siano stati, ci sono sempre stati operai che hanno raccontato la loro esperienza, però alle case editrici non li hanno mai voluti, perché degli operai non interessa niente a nessuno sostanzialmente. Perché come hanno, anche se erano sgrammaticati, come hanno fatto con certi scrittori che conosciamo, sappiamo, opera di editing e di pulizia del testo, potevano benissimo farlo anche per le storie raccontate dagli operai, hanno preferito piuttosto che fosse un esterno a raccontarla, proprio per creare pietismo e tutte le cose che sappiamo, e quindi è una questione politica sostanzialmente. Grazie. I think the Ken Loach example is useful as a touchstone, particularly in Italy, because of the popularity of his work. I fear that a little bit he's a slightly more marginal figure in British culture in some ways. However, I think he's, which may be related to questions about the market that people have been raising in various ways. I think another way we can consider his work, though, is that bridge between that social realist literary tradition that crossed over into film from the 1950s and 60s. Through to a more contemporary picture where you might see a real range of film and television where there are working class writers, working class voices representing working class experience. So that ranges from recent TV series such as the Small Axe films, which are on BBC, Steve McQueen, the artist and filmmaker, produced that series with writers like Alex Wheatle and Courtier Newland, really tracing black experience from the 70s through to sort of more contemporary times. But we can see that in a number of ways. Cash Carraway, a writer who's here and is part of it, her work is being launched next week, a series called Rain Dog. She can talk about it herself, obviously, but it's kind of, I think, in that tradition of a working class voice then being represented on screen, but also it's a working class writer. And so that's where that kind of there's a sort of bridge between Ken Loach's work, that kind of maybe narrower literary tradition of the 50s and 60s, through to a more sort of plural landscape of today. And in many respects, there's quite a few other examples that could come up with it. In terms of writing for television, that is an area where, certainly in terms of the writers and the voices and the actors, we can see a pattern of working class expression and representation showing something about contemporary Britain, I think. L'esempio di Ken Loach è forse più rappresentativo qui in Italia per la notorietà che ha nella cultura britannica, in realtà è molto più marginale rispetto a qui, però può essere in parte legato alle questioni del mercato, come è venuto fuori anche dalle domande precedenti, ma lo vedo più un ponte tra la tradizione, cioè la working class tradizionale, che è quella magari più rappresentata a Ken Loach, e l'immaginario contemporaneo. Esiste oggi una varietà di film e serie TV che rappresentano la voce e le esperienze working class. Penso ad esempio a serie TV come Small Axe, scritta da Steve McQueen con la collaborazione con Alex Whittle e Courtney Wood, che perseguono appunto l'obiettivo di colmare la carenza di esperienze degli anni 70 a oggi, esperienze working class, oppure anche alla serie TV di Cash Carraway, Rain Dog, che sarà lanciata la prossima settimana, ma sicuramente insomma ne parlerà lei poi nei prossimi giorni. E qui vediamo proprio come l'autore sia working class, e mi viene in mente appunto questo ponte tra tradizione e attualità. E in termini di sceneggiatura non succede ovunque, quindi abbiamo qui proprio delle esperienze e delle rappresentazioni working class. As we were saying that, I just realized it might be worth saying that actually just those examples I've given are either come through BBC or Channel 4, both of which receive public funding in terms of filmmaking and making programs, and they're under a huge amount of political pressure not to take the form they're in they're also not perfect, but it is interesting that has come from collective public support. E vale la pena anche dire che comunque sono tutte serie TV e programmi che vengono mandate in onda da BBC o Channel 4, quindi con fondi pubblici, con un'estrema pressione politica, ma è interessante vedere appunto da dove vengono, da chi sono scritti e sceneggiati. Grazie Anthony. Claudia. Per rispondere a questa questione, a cui tengo molto in realtà, sulla lingua o le possibili lingue della letteratura working class, da una parte c'è senz'altro, accade questo, no? Di sanificare i testi, di ricondurli a una norma, la normalizzazione delle asperità è qualcosa che riguarda tutti i testi, soprattutto per grosse, grandi case editrici, figuriamoci se sono testi che nascono, no, all'interno di quel tipo di peculiarità linguistica. In realtà l'ambito della letteratura working class è estremamente polifonico, quindi io ti faccio la domanda contraria: cosa succede invece quando c'è una sorta di esotismo della sgrammaticatura, no? Del parlare male o della devianza della norma, che spesso viene imposta perché altrimenti non viene considerato credibile, no? O fedele. Una scrittrice working class che amo molto, irlandese, si chiama Lisa McKierney, la pubblica Bompiani in Italia, ha fatto un articolo sul Guardian, se lo recuperate, in cui veniva accusata che i suoi personaggi di strada working class non erano credibili perché si esprimevano troppo bene. Ora, chi ha esperienze di margine, di strada o di resistenza, si rende conto che spesso per approfittarti in qualche modo, muoverti bene nel sistema, devi avere una grande padronanza linguistica dei codici e dei lessici specifici, perché è da quella padronanza che spesso deriva la tua sussistenza. E quindi cosa succede quando ci sono vocabolari specifici o c'è una capacità grandissima, no, di spostarsi dall'alto in basso, no, di cambiare registro, che per me è una delle connotazioni più forti della letteratura working class, che ha questa intelligenza di muoversi tra la lingua standard e la lingua subalterna. E quindi credo che ci sia sicuramente un problema generale di sanitarizzare i testi, e dall'altro però bisogna resistere a questa che io chiamo fame di colore, no? Dammi il dettaglio sgrammaticato, impreciso, di chi parla male, perché quella è la mia aspettativa per chi proviene da un determinato contesto sociale.